Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. minuti 18 secondi, buona giornata gentili ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento con l'attualità internazionale qui su Radio 24. I saluti vi arrivano anche da Mire Lucchetti, Nadia Zammiti che sono in redazione e Filippo Aureggi che è in regia. Allora, oggi buona parte della trasmissione sarà dedicata a Frontex e alla questione immigrazione dopo il no della Commissione europea che ha sostanzialmente detto al nostro ministro dell'interno Mare Nostrum è affare vostro, la gestione del Mediterraneo è affare vostro. Perché? Perché Frontex, fondamentalmente, questa è stata la risposta, non ha i soldi per sostituirsi alle operazioni di controllo e salvataggio di Mare Nostrum, appunto. Però prima di parlare della questione immigrazione voglio tornare a Gaza e andiamo lì, proprio in quella striscia. The ceasefire ended well before its midnight deadline. The first rockets flew without warning from Gaza. Within minutes, Israel had begun to respond with air raids against targets in Gaza. This is the 11th ceasefire that Hamas has either rejected or violated. And it must be clear, if one side violates the ceasefire, the other side no longer is obligated to honor the same ceasefire. E la perentoria voce che avete sentito è quella di Mark Regev, che è il portavoce del governo israeliano, che diceva: questa è l'undicesima volta che Hamas rompe il cessate il fuoco e quindi la risposta non si è fatta tardare. Si iniziano di nuovo a contare i morti nella striscia. Nel frattempo Hamas ha smentito le voci che davano per morto il comandante militare del suo braccio armato. Intanto la Lega Araba punta il dito su Israele e dice: è colpa sua se i negoziati sono falliti. Che cosa è accaduto al Cairo, o meglio che cosa non è accaduto, perché sono andati male quei negoziati su cui tutto il mondo puntava gli occhi? Do il mio ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Paola Caridi, giornalista esperta di Medio Oriente, autrice fra l'altro del blog Invisible Arabs, scusate, ma la potete leggere anche per esempio sul Fatto Quotidiano. Paola, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti voi. Allora Paola, che cosa è accaduto, ripeto, meglio, cosa non è accaduto, perché il negoziato al Cairo è fallito? Questo è difficile dirlo. La cosa fondamentale è che fin dal primo momento Hamas ha posto delle condizioni, e conoscendo, ahimè, come in questo caso come esperta di Hamas, il movimento islamista radicale palestinese, quando Hamas pone delle condizioni, sono delle condizioni strategiche, e la condizione primaria è l'apertura della striscia di Gaza, quindi la rottura dell'embargo, che è il tema più sensibile anche per Israele. E quindi, come dire, questo è il nodo del contendere, ma Hamas non può tornare, come dire, al periodo precedente, perché questo vorrebbe veramente significare perdere non solo il consenso dentro Gaza, ma perdere il suolo. Voglio dire, se non si rompe l'embargo di Gaza, cosa vuol dire? Che Gaza torna al periodo precedente all'ultima operazione, l'ultima delle tante operazioni militari israeliane su Gaza? Non è possibile anche per il rapporto fra Hamas e le altre fazioni armate, perché quando si parla dei razzi che vengono sparati dalla striscia di Gaza si indicano come i razzi di Hamas, ma sì, tutte le fazioni armate sono allo stesso livello dentro quella che loro definiscono la resistenza, e dunque tutte fanno parte del settore armato di Gaza. In più c'è un problema ovviamente con l'autorità nazionale palestinese, e cioè l'idea dell'Egitto è quella di consentire attraverso questo accordo non solo la presenza di nuovo dell'autorità nazionale palestinese a Gaza, ma il governo della striscia da parte della ANP di Mahmoud Abbas. Questo va fatto negoziando all'interno della casa palestinese, e questo è un altro dei nodi difficili da affrontare. E che insomma significa anche una presa di posizione politica. Dobbiamo ricordare che c'è anche una vita politica a Gaza, benché siano le armi a parlare in questo momento. Paola, certo, però, ma è la strategia politica che governa la parte armata, magari non in maniera diretta, ma quello che ho letto negli scorsi giorni, cioè che l'ala militare di Hamas, che fa la voce grossa e propone una linea dura nella struttura organizzativa di Hamas, mi dispiace di entrare nel dettaglio, ma la strategia politica è parte integrante dell'ala politica, non certo dell'ala militare, con tutti i cambiamenti che sono avvenuti in questi ultimi anni, quindi i cambiamenti che riguardano il controllo da parte di Hamas della striscia di Gaza, ma la strategia politica è una strategia che compete a un'organizzazione partitica estremamente capillare e anche molto molto strutturata, quindi mi sembra strano che l'ala militare sia quella che decide in sostanza. Chiarissimo Paola, l'altra domanda però è questa: quando Hamas si presenta al tavolo delle trattative e pone delle condizioni così stringenti, probabilmente ben immaginando alla fine che Israele su quelle non si muoverà, qual è alla fine l'obiettivo nel lungo periodo, l'obiettivo politico? Perché nel breve periodo, diciamo, può funzionare anche la tattica, no, del vittimismo, però insomma veniamo invasi, ci sono tantissimi morti civili, questo sicuramente aiuta dal punto di vista politico Hamas, non c'è dubbio, però sul lungo termine quanto può durare questa strategia? E correggimi se sbaglio nella lettura, Ma la strategia di Hamas, che sembra... Ci sono due anime di Hamas che però sono all'interno dello stesso movimento e anche all'interno delle stesse persone, voglio dire strutturalmente, che sono l'anima pragmatica, e cioè Hamas ha sempre trattato anche con Israele, ha trattato su Shalit, ha trattato sulle tregue, quindi magari in maniera indiretta, ma loro hanno sempre trattato, così come Israele ha sempre trattato con Hamas, pur chiedendo, come dire, l'inserimento della lista nera delle organizzazioni terroristiche. Accanto a questa arma, come dire, pragmatista che tratta, che negozia, vi è poi un'anima, per così dire, strategico-politica, che quando decide che è quella la linea e che cioè solo in quel modo si riuscirà a raggiungere un obiettivo politico, a sopravvivere, a vivere politicamente in un certo modo, purtroppo è ben difficile che Hamas si muova da quella linea. Cioè, se la strategia di Hamas, noi non sappiamo se è così, ma possiamo supporre che sia così, è quella di rompere l'isolamento di Gaza, e che perché hanno comprendono o pensano che questo sia il nodo, cioè la loro vita politica dipende dalla rottura dell'isolamento di Gaza, io credo che da questo punto non si muoveranno. E questo è il momento per loro di rompere, cioè loro considero che adesso è il momento di rompere l'isolamento, e allora questo è strategico per loro, non è più tattico, quindi non siamo più a livello del breve periodo, tregua, si è capito, del negoziato, almeno questa è la mia ipotesi oggi, poi magari domani vedremo che tutto evolverà in altro modo, però la mia idea, che era quella che avevo in testa anche tre settimane fa, conoscendo le personalità politiche poi che sono in gioco, poi alla fine si è rivelata purtroppo vera, cioè io mettevo anche in conto che i negoziati del Cairo arrivassero a un punto fermo e che si ricominciasse a sparare. Certo, e adesso Paolo Caridi, in estrema sintesi, secondo te cosa può accadere? La risposta israeliana non si è fatta attendere, temi un'escalation come nelle settimane scorse? Potrebbe anche esserci, il vero problema è che sono tutti perdenti e non c'è nessun vincitore, men che mai è vincitore Israele, e o salta fuori qualcuno che veramente faccia negoziare tutti quanti, o altrimenti la cosa di fondo, secondo me, dal punto di vista dell'Egitto per esempio, è il fatto che l'Egitto ha probabilmente ragione, anche se c'è Al-Sisi, che non è certo un attore neutrale, il presidente egiziano, ha probabilmente ragione a dire questa è la buona occasione per riportare l'autorità nazionale palestinese dentro Gaza, e questo sarebbe anche il modo per risolvere l'isolamento, cioè si riapre Gaza ma non è più Hamas a governare la striscia, ma l'autorità nazionale palestinese. Il problema è che nell'autorità nazionale palestinese, a questo punto, come membro del governo c'è Hamas. Allora, o si prende in considerazione il fatto che riportando la NP è una NP diversa da quella di 10 anni fa, è una NP in cui Hamas c'è e fa parte integrante, oppure secondo me da questo nodo non si esce. E poi l'altro nodo fondamentale che io continuo a ripetere come un mantra è il fatto che è l'NP che è in gioco di nuovo, perché Hamas vuole entrare dentro l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, di cui finora non fa parte. Chiaro, chiarissimo. Grazie Paola Credi per la tua attenta e minuziosa analisi. Buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Allora, se perde Israele nella possibile escalation di un nuovo conflitto, sicuramente continuano a perdere i civili, la quota di palestinesi morti sale a 20, gli ultimi due sarebbero due minori di 11 e 16 anni morti in una incursione aerea israeliana su un'abitazione nei pressi di Deir al-Balah, nel centro della striscia, mentre continua l'allarme per i razzi lanciati appunto dalla striscia verso il sud di Israele. Adesso voltiamo pagina, perché vi anticipavo che la questione immigrazione, questo schiaffo politico che l'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea, i titoli di quest'oggi sui giornali recitavano, per esempio sulla Stampa: immigrazione, no dell'UE all'Italia, Mare Nostrum, problema vostro, oppure niente aiuti e Alfano protesta con la UE, sbarchi, Italia respinta dall'Europa, Alfano resiste, no allo scarica barile. È uno schiaffo politico? Veramente Frontex non ha i soldi? Allora se è così, a cosa serve Frontex? È giusto, è corretto che l'Italia sopporti il peso della gestione della prima emergenza, oltre 100.000 gli arrivi dall'inizio dell'anno, oppure dovrebbe essere una gestione comune europea? Di tutto questo parleremo nel prosieguo della trasmissione. 349-238-6666, Twitter, Giampaz, oppure Nessun Luogo 24, oppure su Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. E allora il primo ospite è Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Beda, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano. Buongiorno. Allora, ci aiuti a leggere questo stop della Commissione europea? C'era il ministro Alfano, aveva questa idea, l'aveva ripetuto da tempo: sostituiremo Mare Nostrum, quindi la missione militare totalmente italiana, con Frontex, che è l'agenzia di controllo delle frontiere. Da Frontex è arrivato un no, perché si dice non abbiamo i soldi. È una sconfitta politica o, come dire, l'Italia denuncia una sua fragilità in sede europea, oppure davvero non ci sono questi soldi, oppure che altro? Ho l'impressione che sia una vicenda che va avanti da mesi, se non da anni. E francamente mi sembra che tutti abbiamo la memoria corta su questa vicenda. Il problema è relativamente semplice. Frontex è un'agenzia europea che si occupa di permettere alle varie frontiere nazionali di collaborare tra di loro per meglio controllare le frontiere esterne dell'Unione. Questo è il compito di Frontex. Non ha altri compiti. Questi sono stati i compiti che i governi europei hanno dato a questa agenzia comunitaria. In altre parole, le varie forze dell'ordine nazionali sono chiamate a collaborare tra di loro. Non c'è un corpo di frontiera Frontex, c'è semplicemente un'agenzia che viene riempita volta per volta dalle varie unità nazionali che collaborano tra di loro per controllare le frontiere esterne. Sì. Poi sull'altro fronte ci sono i paesi, l'Italia, ma anche la Grecia, la Spagna, tutti i paesi che hanno una frontiera esterna con l'Unione, che devono gestire una frontiera esterna con l'Unione, in altre parole i paesi scandinavi come la Polonia, come il Portogallo, la Spagna o l'Italia. Questi paesi sono quelli chiamati ad affrontare per primi l'arrivo dei flussi migratori clandestini che provengono normalmente dal Mediterraneo meridionale. L'Italia sta dando battaglia perché vi siano due aspetti che vengano cambiati. Prima di tutto vorrebbe che Frontex fosse rafforzata e fosse fondamentalmente creata una unità europea di gestione delle frontiere comuni. Questo ancora non è avvenuto. È verissimo che il bilancio di Frontex è molto basso, sono circa 89 milioni di euro all'anno, ma proprio perché il compito di Frontex è di coordinare le politiche nazionali. Come dicevo prima, non c'è un'unità europea di gestione, di controllo delle frontiere esterne dell'Unione. L'altro aspetto su cui sta lavorando l'Italia è quello di cambiare il principio di Dublino, sì, che è un principio secondo il quale è il paese di prima assistenza, il paese di primo arrivo che si occupa di dare asilo agli immigrati clandestini. Evidentemente l'Italia è in difficoltà perché ha delle frontiere molto estese, tutte nel Mediterraneo, quindi facile approdo degli immigrati provenienti dal sud. Allora, se questa è la situazione, dobbiamo chiederci perché le cose non cambiano. Allora, ho l'impressione che i motivi siano molti, sono numerosi, credo che ve ne siano almeno due. Prima di tutto, evidentemente siamo in un momento di crisi economica. Non c'è niente da fare, i governi sono in ristrettezza finanziaria a sud come a nord e quindi non c'è ancora la volontà politica, l'unanimità per rafforzare Frontex e farne una vera e propria unità per il controllo delle frontiere comuni. Il secondo aspetto invece è più generale, più politico. Da un lato i paesi del nord giustamente dicono che stanno dando asilo agli immigrati molto più dei paesi del sud. Sì, beh, questo lo dicono anche le cifre. L'anno scorso la Germania 125.000 contro i 26.000 credo dell'Italia, insomma, per dare una misura. Esattamente, e non solo la Germania, andiamo a vedere le cifre della Svezia, certo, piuttosto che dell'Olanda, piuttosto che della Gran Bretagna, insomma c'è un enorme divario. Quindi i paesi del nord possono dire di fare la loro parte per certi aspetti, perché dare asilo a queste persone non significa soltanto dare loro un pezzo di carta, significa anche contribuire finanziariamente alla loro sopravvivenza, significa accoglierli, significa dar loro una residenza e magari un posto di lavoro. Quindi questi paesi fanno moltissimo. L'altro aspetto su cui naturalmente si parla relativamente poco, ma che ha un ruolo nel dibattito politico europeo, è che vi è la sensazione da parte dei paesi del nord che l'Italia non riesca a controllare le proprie frontiere. E per certi versi è difficile per l'Italia controllare frontiere così estese, frontiere marittime evidentemente, così sì, estese. Ma dietro alla sensazione dei paesi del nord vi è il fatto che vi siano regioni in Italia dove il controllo dell'ordine pubblico è relativo. E non posso dar loro torto, è una situazione che anche gli italiani sanno perfettamente, che vi sono regioni nel sud Italia dove il controllo dell'ordine pubblico è difficile. Quindi dinanzi a questa situazione, da un lato il fatto che il nord comunque fa la sua parte nell'assistere questi immigrati e dall'altro le difficoltà italiane a controllare le frontiere e parte del suo territorio, fa sì che il contrasto fra nord e sud in Europa sia molto acceso e quindi periodicamente vediamo sulla stampa questi dibattiti tra nord e sud. Sì, perdonami Beda, cosa intendi insomma questa cosa sull'ordine pubblico nel sud che non ho ben capito, devo confessare? Vi sono regioni dell'Italia dove il controllo della polizia in alcune regioni è complicato a causa delle organizzazioni malavitose e via di seguito e quindi visti dalla Germania per esempio, ma sì, anche visti dalla Francia, visto dall'Olanda, visto dal Belgio, evidentemente c'è un aspetto che va oltre l'immigrazione clandestina, che va oltre il controllo delle frontiere ed è credo questo in parte che falsa il dibattito in Europa su questo aspetto. Cioè tu dici c'è una percezione di una parte dell'Italia in cui la polizia e il controllo del territorio non è efficiente, non è efficace. Esattamente. E probabilmente questo falsa anche il dibattito e influenza la visione che il nord ha del sud. Ora ho capito meglio. Però vorrei tornare su quei 90 milioni di euro che Frontex gestisce ogni anno, che in realtà insomma tu dici è un budget risibile. In realtà se noi guardiamo quanto costa Mare Nostrum, che ne costa 9 milioni al mese, in realtà le cifre, Mare Nostrum costa un po' di più del budget annuale di Frontex, per cui come dire, l'idea di Alfano non era peregrina, no? Di piazzare il budget di Frontex nel controllo del Mediterraneo, che al momento è la frontiera più sensibile anche dal punto di vista della perdita delle vite umane. Frontex spende tanto, io ho lavorato embedded con Frontex al confine fra la Turchia e la Grecia ed erano poliziotti bulgari con dei Land Rover, con le telecamere termiche eccetera eccetera, che controllavano ma poi non facevano nulla, nel senso che chiamavano la polizia greca per eventuali azioni. Quindi a me non sembra così risicato questo budget da 90 milioni, cioè loro i soldi li spendono. Sì, certo, i soldi li spendono. Potrebbero risponderle che le frontiere del Mediterraneo italiano sono solo parte delle frontiere, che devono anche controllare per esempio tutta la frontiera orientale. Noi ce ne dimentichiamo della frontiera orientale. No, ne abbiamo parlato più volte. Io stesso sono stato in Serbia nelle scorse settimane proprio per studiare e analizzare la rotta balcanica che è in crescente aumento come numeri. Quindi assolutamente. Poi loro devono controllare anche la Spagna, tutta la parte del Mediterraneo occidentale. Loro dicono vi sono due aspetti. Da un lato il bilancio probabilmente non è sufficiente e dall'altro dicono dobbiamo cercare di far collaborare le varie unità nazionali. Io credo che l'Italia stia ponendo il problema, lo sta facendo regolarmente. A un certo punto qualcosa cambierà inevitabilmente. Io ho l'impressione che col tempo qualcosa cambierà. Certo, non mi sembra che il tempo sia ancora maturo. È anche vero, scusami Beda, che se Alfano ha detto che il ministro degli interni Angelino Alfano ha detto che Mare Nostrum, scusate, non compierà i 2 anni di vita, per cui ha dato in qualche modo una scadenza, un orizzonte temporale, a ottobre scade il primo anno di vita, con costi, in effetti è vero che riceviamo il plauso dell'Europa, però sono costi che l'Italia non penso possa sostenere a lungo termine, quindi il tempo non è che giochi molto dalla parte dell'Italia, no? Le cose possono anche a un certo punto essere rapide, con l'impressione. Fra l'altro la presidenza del semestre europeo poteva essere un'occasione ghiotta, no, per il nostro paese, per mettere la quinta su queste tematiche, però al momento, fra l'altro il primo ministro Renzi sulla questione immigrazione, il premier Renzi sulla questione immigrazione finora insomma non ha detto un granché, no? No, la mia impressione, ma questo vale oltre evidentemente il problema dell'immigrazione, è che se l'Italia vuole strappare delle concessioni, vuole strappare dei risultati in Europa in generale, su tanti fronti, fra cui quello dell'immigrazione, deve dimostrare coerenza e costanza, che sono le due qualità della diplomazia in Europa. Bisogna essere coerenti e costanti nel presentare il problema, nel gestirlo e nell'essere convincenti. Se si dimostra coerenza e costanza, io sono certo che si può trovare una soluzione che sia più europea, anche, come dicevo prima, in un contesto difficile di crisi economica, dove inevitabilmente gli stati nazionali tendono a guardare ai propri interessi sempre di più. Relativamente pochi sono i paesi che hanno frontiere esterne dell'Unione, e quindi bisogna agire su di loro, bisogna cercare di convincere loro, perché loro hanno lo stesso interesse italiano. Certo. I paesi che non hanno una frontiera esterna con l'Unione lo risentono inevitabilmente meno. Vedremo se il primo ministro Renzi, se il ministro Alfano, insomma, avranno la forza di farsi sentire in sede europea. Grazie a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro Beda. E la Commissione europea disse di no ad Alfano, Mare Nostrum rimane un problema italiano. Questo in sostanza è il messaggio che viene da Bruxelles. E fra l'altro uno dei portavoce della Commissione europea, in particolare Anthony Gravilli, ha detto l'Italia ha beneficiato di 500 milioni di euro tra il 2007 e il 2013, ne riceverà 315 tra il 2014 e il 2020. Si chiedeva dove sono andati a finire tutti questi soldi. Fra l'altro era una delle domande che io volevo porre al ministro Alfano, che abbiamo ovviamente invitato, però per il momento non ci ha dato risposta. Chiaramente l'invito rimane aperto, perché ci piacerebbe andare a fondo di questa questione. Do intanto il mio buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Christopher Hein. Buongiorno. Buonasera a voi. Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Con lei, Ayn, vorrei affrontare quello che è probabilmente uno dei nodi più importanti se osserviamo la questione immigrazione a livello europeo, che è il regolamento Dublino 2, che è già stato citato dal collega Beda Romano. Questo regolamento impone al primo paese che il migrante tocca, il primo approdo, diciamo, impone a quel paese lì di espletare tutte le varie pratiche, ad esempio per il diritto d'asilo, eccetera, eccetera. Si è parlato da più parti, si è avanzato l'ipotesi di una carta comunitaria, cioè per fare in modo che si evitino questi rimpalli, questi ping pong di migranti fra le varie frontiere. Uno arriva in Italia ma vuole andare in Svezia, come è per il 95% dei siriani, per esempio, Svezia, Inghilterra, Norvegia, poi viene beccato, come la cronaca degli ultimi giorni ci ha consegnato, ad esempio al confine con la Germania, e viene rispedito verso il Brennero. Lei quest'ipotesi, Ayn, di una carta europea del rifugiato, come la vede? Potrebbe essere una soluzione? È evidente che bisogna trovare una soluzione. Sul nuovo regolamento Dublino c'è stato un dibattito di più di 4 anni nelle istanze europee. Il percorso si è concluso nel giugno dell'anno scorso e quindi è molto difficile adesso riaprire il dossier del regolamento Dublino come tale. Bisogna trovare delle alternative concrete e realistiche. Bisogna, e su questo sono molto contento che il governo italiano ha fatto questa proposta, di un riconoscimento reciproco delle decisioni positive sulle richieste d'asilo tra tutti gli Stati membri. Questo, spiego, significherebbe quindi una persona riconosciuta rifugiata in Italia automaticamente avrebbe il diritto di muoversi e anche di risiedere e lavorare in altri stati dell'Unione. Questo potrebbe praticamente svuotare l'effetto di questo regolamento Dublino, perché alle persone non interessa tanto dove viene esaminata la richiesta di protezione, ma dove si vive dopo, dove si può lavorare, dove si può contare con propri familiari, con amici, con comunità esistenti. Quindi questa è la linea che mi auguro che durante questo periodo della presidenza italiana dell'Unione sia con forza riproposto dal governo italiano, naturalmente con le alleanze che sono necessarie. Un'altra idea è quella, abbiamo già un regolamento nell'Unione Europea che permette a lavoratori stranieri, dopo 5 anni di residenza regolare, di spostarsi e lavorare in un altro Stato membro. Se questo vogliamo, in favore di rifugiati, accorciare i tempi a 1 anno, 2 anni massimo, e quindi questo potrebbe essere un altro meccanismo che non richiede una nuova politica, ma solamente una estensione di una politica esistente in favore di rifugiati. Ayn, se Mare Nostrum venisse sospeso e non rimpiazzato da Frontex, cosa che ormai insomma pare certa, lei che timori ha? Ma sa, su Frontex ho sentito anche la discussione di prima, su Frontex sì. Mi sembra che c'è un po' di confusione, no? Frontex è un'agenzia di coordinamento, no? Delle forze di polizia di frontiera di Stati sì. membri. Frontex di per sé non dispone di mezzi, no? Per le operazioni. Sì, questo coordina, è stato detto, mi sembra, no? Abbastanza chiaramente. No? E quindi anche quando si parla di un budget annuo di Frontex di circa 9 milioni, 90 milioni, questo è anche per l'apparato nella struttura Frontex a Varsavia, non è che sono soldi operativi, no? Ma in tutte le operazioni Frontex partecipano unità, no? Che possono essere navali, aerei, elicotteri, forze di polizia, eccetera, di vari Stati membri. Questa è l'idea. Quindi non si tratta che Mare Nostrum sia consegnato a Frontex di per sé, ma che sia riconosciuta un'operazione di responsabilità europea con la partecipazione quindi da altri Stati, coordinato perché no da Frontex. Quando ogni tanto si dice bisogna cercare accordi con i paesi di origine, ovviamente in tantissimi casi questo è quasi impossibile, perché se pensiamo al caso siriano, al caso eritreo, somalo, fosse anche la Libia, se non fosse proprio il paese di origine ma il paese di partenza, ad esempio, io trovo che questa discussione sia in un impasse totale, perché come facciamo a... Su questo c'è molta retorica, diciamo. No, sì, giustamente i paesi che lei ha appena menzionato, no? La Somalia è una situazione, diciamo, di totale instabilità da ormai ben 23 anni, sì. No? Quindi non è che uno può svegliarsi oggi e dire ok, dobbiamo, no, fare accordi con la Somalia per i rifugiati somali. No, quello che bisogna fare è certamente appoggiare un processo di ristrutturazione, di democratizzazione, di legalizzazione della situazione in Somalia, come anche in altri paesi, ma questo quando c'è un conflitto aperto come in Siria, come in Iraq, è impossibile, no? Quindi non è che si sfugge dalla responsabilità di accogliere e proteggere le vittime di tali conflitti. Sì. Grazie mille Christopher Hein per essere stato con noi, lo ricordo, direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi, arrivederci. Allora, 349-238-6666, ma quale... quale Frontex? Bisogna rifondare la Gestapo e la soluzione sarà definitiva. Va bene, Frontex sì, Frontex no, fa eco un altro ascoltatore, intanto ci facciamo invadere, oltretutto con costi altissimi. Questo è Francesco, Alfano non riesce a risolvere un bel niente, e cosa facciamo? Ci facciamo invadere. Così un altro ascoltatore, un altro ancora, dice Alfano e Renzi sono buffoni, non siamo considerati, sarebbe ora di farci sentire e non di vagheggiare così, Andrea. E su Facebook invece un altro ascoltatore dice se l'Italia decidesse da ottobre di sospendere Mare Nostrum e i migranti annegassero saremmo tacciati di essere degli assassini. E poi c'è il mio affezionato ascoltatore o ascoltatrice, non ricordo, che ama bacchettarmi, direi un giorno sì, un giorno no, che in realtà bacchetta Beda Romano, dice l'esempio della camorra del suo ospite è tendenzioso e razzista, lo sanno anche le pietre che la camorra è radicata da anni anche a nord, eccetera, eccetera. In effetti per questo ho chiesto lui a Beda Romano cosa intendesse esattamente sul poco controllo dell'ordine pubblico e lui si è corretto parlando di una percezione da parte dei paesi europei rispetto al sud Italia, almeno così io ho capito, ma andiamoci a risentire la registrazione, eventualmente vi risponderemo nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. 349-238-6666 gli sms, Twitter Nessun Luogo 24 oppure Giampaz, continuate a intervenire, cerco di leggere tutti i vostri commenti e messaggi. Apriamo anche il capitolo giuridico, lo facciamo con Gianfranco Schiavone, giurista, esperto di immigrazione. Dottor Schiavone, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da questo no di Frontex. Abbiamo capito il ruolo di Frontex qual è. È ammissibile giuridicamente che l'agenzia di controllo, di controllo delle frontiere e di coordinamento delle forze di polizia si rifiuti di fare un lavoro che per definizione le spetterebbe? Oppure sto capendo male io la funzione di Frontex? Ma non credo, perché ci ho lavorato con i bulgari tra il confine tra Grecia e Turchia e quindi sono presenti fisicamente. Poi è vero che è una polizia bulgara che viene prestata in quel confine, però Frontex dispiega dei mezzi dei singoli stati sulle varie frontiere. E com'è possibile che l'Italia dica aiutateci nel Mediterraneo e Frontex possa dire no? Infatti sono d'accordo con la sua lettura, sicuramente abbiamo un'agenzia e quindi che ha compiti non infiniti, forse anche limitati, ma la risposta non è assolutamente condivisibile, perché l'agenzia non ha detto però vediamo quali sono le risorse e come organizzare il tutto, ma ha detto sostanzialmente questo non è un nostro compito. Ciò non è vero, perché ricordo che nel diritto europeo il controllo delle frontiere non è soltanto il contrasto all'immigrazione irregolare, ma è anche invece la violazione e la tutela del diritto d'asilo, naturalmente. Quindi la richiesta dell'Italia era perfettamente legittima e la risposta non può che io personalmente la stigmatizzo. Abbiamo parlato del regolamento Dublino 2, che è quello che impone al primo paese che riceve il migrante l'espletazione dell'eventuale richiesta di asilo, ed è un regolamento che quantomeno crea dei grossi imbuti, dei grossi colli di bottiglia, perché delega ai paesi più esposti rispetto alle ondate migratorie ovviamente tutta la prima accoglienza e anche... Ecco, che cosa pensa di questo regolamento? Christopher Hein diceva prima, beh, il risultato di anni di lavoro, sarà difficile andarla a cambiare, però la proposta italiana di un mutuo riconoscimento tra i paesi potrebbe arginare gli effetti dannosi del Dublino 2, però io francamente questo mutuo riconoscimento dei paesi europei lo vedo abbastanza distante. Beh, innanzitutto va detto che siamo già a Dublino 3 addirittura, perché c'è una nuova versione del regolamento entrata in vigore il 1 gennaio del 2014, che però non cambia in realtà l'impianto complessivo di un regolamento, è questo che va compreso, che è ormai vecchio storicamente, cioè è nato in un'altra epoca quando lo squilibrio delle domande d'asilo fra i paesi del sud Europa e i paesi del centro Europa era totale e forse ha avuto un senso per un certo periodo, anche se è sempre stato aspramente criticato per la sua rigidità e per il fatto che non tiene in conto un dato fondamentale, cioè i desideri delle persone, insomma, sostanzialmente, sì. E la volontà di scelta. Oggi a mio avviso è un regolamento profondamente desueto, iniquo e, come sappiamo, anche in gran parte inefficace, sia perché non sta assolutamente frenando i movimenti secondari, sia perché appunto i paesi che si trovano in difficoltà, vedi il caso della Grecia qualche anno fa, hanno di fatto fatto saltare l'applicazione del regolamento. Quindi l'Europa nell'intestardirsi, nel non modificare seriamente, non con le piccole modifiche di cui parlavo prima, questo regolamento, andando appunto a superare sia pur gradualmente questo principio rigidissimo della divisione geografica, dimostra di avere purtroppo una scarsa politica comune in materia di asilo, nonostante. E fra l'altro c'è un'ascoltatrice, Tina, che le dà ragione, perché dice: al momento della firma degli accordi la conformazione geografica dell'Europa era diversa, è difficile stabilirne i confini. Questo Tina al 349-238-6666. E poi c'è chi al 349-238-6666 stigmatizza uno dei messaggi che ho letto e dice: ma a fronte di interventi articolati e complessi come i vostri, chi vi scrive vaneggiando di Gestapo non si sente, vabbè, una parola non proprio, vabbè, non si può dire. Temo che il vero problema dell'Italia siano costoro, così dice un ascoltatore. Un altro invece lancia la provocazione: a questo punto andiamo a prendere i migranti direttamente nei paesi di origine, facciamoci pagare al posto degli scafisti, noi prendiamo i soldi e nessuno rischia la vita. E poi c'è chi dice: il problema di questo caos in giro per il mondo, in particolare in Medio Oriente, sono gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera, che hanno bisogno di creare una guerra a causa del loro debito pubblico. Questo al 349-238-6666 oppure 800-24-0024 se avete da dire qualcosa sul tema immigrazione, sul ruolo di Frontex, su questa debolezza dell'Italia nel farsi sentire in sede europea. Io sono qua, il microfono è aperto. Per adesso voglio tornare da Gianfranco Schiavone, che è un giurista, che è esperto di immigrazione, che insomma intanto stava dicendo che questo regolamento Dublino 3 è farraginoso e poco efficace. Io vorrei aggiungere anche una cosa, non so se lei è d'accordo, Schiavone, che in realtà l'inefficacia di questo Dublino 3 costringe quasi a un ripristino dei confini intra-Schengen, perché ci sono più pattugliamenti, la polizia controlla i treni, ad esempio, diretti verso la Francia, diretti verso il nord Europa, e quando trova dei migranti li rimanda indietro. Quindi questa Europa aperta in realtà non è più così aperta, no? Sì, il regolamento si basava su un presupposto che non si è mai verificato, e cioè una uniformità di trattamento delle domande d'asilo e soprattutto poi degli standard, no, di accoglienza e dei diritti concessi ai rifugiati e anche alle misure di integrazione. Ora, nessuno qui ovviamente sogna, no, il paradiso e immagina veramente che ci sia una uniformità in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma la realtà è che non solo non c'è uniformità, ma c'è una tale così profonda diversità e differenza che il presupposto stesso di questo regolamento è estremamente criticabile. Quindi ecco di nuovo il tema di prima, cioè la mancanza di una politica europea complessiva che sostenga maggiormente i paesi più esposti o comunque quelli che hanno, come l'Italia, perché va detto, una scarsa protezione d'asilo, che hanno avuto poche domande nel passato e quindi si trovano a che fare con una situazione nuova per loro e che quindi sicuramente andrebbero supportati dentro un programma diverso, riconoscendo da un lato i meriti dell'Italia ma anche le sue responsabilità nel passato ripeto, sì, essere stato invece un paese di scarsissima tradizione di asilo. E fra l'altro che è stata anche bacchettata dalla Corte Europea perché quei respingimenti famigerati, respingimenti collettivi... Erano illegali, violavano il principio di no respingimento. L'Italia appunto ha delle pagine molto nere, insomma, nella sua storia anche recente. Quindi quando alza la voce a volte ha ragione, altre volte no. Ecco, è una situazione molto complessa. Certo, è quello che stiamo cercando di restituire agli ascoltatori. Il fenomeno immigrazione molto spesso viene strumentalizzato, si parla per slogan, non lo si conosce, non si guardano i numeri e quindi insomma lo sforzo, il nostro tentativo è di cercare di analizzare quelli che sono i fatti per poi prendere eventualmente decisioni politiche, ma ovviamente questo non spetta a noi. C'è Tina che al 349-238-6666 dice: Frontex rinforza il controllo sulle coste spagnole dove gli sbarchi sono di poche migliaia di persone e ignora 100.000 sbarchi in Italia, ma siamo seri, punto esclamativo. Così sarcastica Tina. E poi c'è un altro ascoltatore, Mario, che dice: non si chiamano migranti, sono clandestini. Gianfranco Schiavone, mi aiuti ancora una volta per favore a ribadire la differenza, perché diciamo migranti e non diciamo clandestini? Ma in realtà diciamo rifugiati, a dir la verità, visto che la stragrande maggioranza di queste persone fuggono da situazioni di violenze collettive, quindi da guerre o da persecuzioni individuali, la maggior parte di loro fa domanda di asilo e i tassi di riconoscimento sono estremamente alti, quindi dovremmo parlare di persone che hanno invece in gran parte un diritto d'asilo, più ancora che migranti. Quanto alla parola clandestino, voglio ricordare che è una parola volutamente dispregiativa, che non ha nessun significato giuridico e che andrebbe sicuramente abolita nel nostro lessico. Fra l'altro c'è stato anche un richiamo alla classe giornalistica italiana che troppo spesso utilizzava questa parola impropriamente, al limite si dovrebbe dire irregolari, ma nel caso di potenziali richiedenti asilo o di richiedenti asilo ovviamente non sono irregolari perché stanno domandando qualcosa che è scritto nel diritto internazionale, quindi noi continuiamo a dire sono migranti oppure potenziali rifugiati se volete, ma certamente non clandestini. Questo per rispondere all'ascoltatore. Altri messaggi al 349-238-6666, c'è chi, Marina da Milano, si dice spaventata dalla maggior parte dei messaggi che pervengono, dice: evidente che l'Italia non può continuare da sola a affrontare le migliaia di migranti, ma impensabile è respingere tout court, credo intende i migranti stessi, anche pensando al nostro passato di emigrazione, ovviamente. Poi dice: se il mondo ci restituisse, tra virgolette, i milioni di italiani nel mondo, se fossero costretti a rientrare in Italia, l'Italia costretta a rimpatriarli, punto di domanda. Allora, 800 24 00 24, Schiavone, stia con me, ascoltiamo un po' di polso, un po' di umore degli ascoltatori, vediamo chi è il primo. No, ancora pochi minuti. Passiamo a analizzare un altro aspetto, che è quello che in realtà a me preme di più, che se vogliamo non è propriamente giuridico, Schiavone, ma è più politico, però le faccio svestire i panni del giurista e le faccio vestire quelli del commentatore politico. Com'è possibile che da 15 anni si parli di emergenza immigrazione quando si sa perfettamente che gli sbarchi arrivano nel sud Italia, sono periodici, rispecchiano bene o male una certa stagionalità perché il mare è buono e quindi si parte? È vero che quest'anno i numeri sono da record, ma com'è possibile che non ci si attrezzi di fronte a un'emergenza che, ripeto, può essere emergenza il primo anno, può essere emergenza il secondo anno, ma il decimo, undicesimo anno di sbarchi massicci non può essere? Come la vede lei? Era quello che lei ha già detto tutto, cioè quando facevo riferimento al passato non brillante dell'Italia facevo riferimento soprattutto a questo, cioè l'Italia è un paese che non ha mai voluto guardare fino adesso, insomma, in faccia alla nuova realtà, che lo vede appunto come un paese di non solo più di transito ma di arrivo, no? di migranti e di, in particolare di rifugiati. La situazione degli arrivi dei rifugiati appunto è ormai 15, addirittura 20 anni, il sistema di accoglienza è sottodimensionato da moltissimo tempo, quindi quando noi parliamo di emergenze, a volte in realtà nel passato abbiamo parlato di emergenze finte, nel senso che l'emergenza era la nostra non preparazione e la nostra, ripeto, tenace non volontà di vedere la situazione, come se dietro la quale c'è probabilmente un problema di carattere culturale, cioè che non capiamo noi stessi cosa sta succedendo alle nostre frontiere, cosa siamo diventati nel mondo e qual è la nostra nuova condizione sostanzialmente. È un problema di percezione, forse di appunto della e chiaramente di percezione culturale e politica. Sì. Per cui l'Italia nel passato ha avuto pochissime domande d'asilo, ricordo 10 anni, se guardiamo 10 anni fa il numero era veramente risibile, poi sono aumentate, ma fino a 2-3 anni fa erano al di sotto della media europea. Quindi se è vero che quest'anno noi abbiamo un numero altissimo di domande e in un certo senso l'Italia ha bisogno sicuramente di un sostegno, ecco, ricordiamoci che se facciamo la somma complessiva, una media, non ci troviamo di fronte appunto a una situazione di vera emergenza, se non, ripeto, relativa e molto, molto recente. Grazie di questa risposta. 800 24 00 24 è il numero che ha fatto Marco da Chieti. Buongiorno Marco, benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno, la ringrazio. Dica tutto. Guardi, volevo dire una cosa, ovviamente non sono per niente d'accordo con quello che dice il suo ospite, il professore Schiavone, in quanto innanzitutto è lo Stato italiano, il Ministero degli Interni, che ha dato una disposizione di affibbiare, anche contro la volontà degli stranieri, la cosa di fare la pratica per asilo politico, che è ovviamente una questione individuale delicatissima da affrontare, però consente alle persone di rimanere molto tempo nei centri di accoglienza, dove una macchina che definirei mangereccia si è messa in moto da tempo per sfruttare tutta questa situazione. In più i nostri politici volevano essere birbi senza esserlo, andando raccattando tutto quello che era possibile in Italia e poi dicendo all'Europa di pagare. Loro non sono fessi e quindi giustamente abbiamo fatto per l'ennesima volta una pessima figura, creando una situazione che a lungo andare, al di là del chiacchiericcio politico, creerà una grossa rivalità tra i nostri giovani, i nostri disoccupati e questi stranieri. E quindi stanno mettendo loro le premesse, specialmente la sinistra italiana, affinché la pace, che potrebbe essere di accordo in pace, di aiuto e la solidarietà sana, possa poi diventare effettivamente una bomba orologeria, e questo è gravissimo, se ne assumano le responsabilità. Grazie Marco da Chieti, insomma posizione abbastanza radicale, addirittura una bomba pronta a esplodere. In realtà, se andiamo a guardare i numeri, ripeto, il 90%, 95% dei siriani che sbarca in Italia non rimane in Italia. Allora, ancora sempre 800 24 00 24, Fabio da Reggio Emilia, sinteticissimo, velocissimo se riesce. Fabio. Sì, no, io ve lo so dire, l'ascoltatore di prima aveva totalmente ragione, ci sono sacche di personaggi che costruiscono la sua carriera politica sugli immigrati, in primis la Boldrini, e non riesco neanche a capire come lei non riusciva a si è fatta spiegare due volte la frase di Romano, che era molto chiara, diceva che al sud buttano i soldi e comunque non c'è un ordine pubblico garantito per gestire questo fenomeno. Quindi... Ma sì, se ho ben capito, Beda Romano parlava anche di una certa percezione che hanno paesi del nord Europa rispetto alla gestione dell'ordine pubblico nel sud dell'Italia, così ho capito. Nord, non è che hanno una percezione che hanno solo in Belgio, quindi mi sembrava... C'è anche al nord Italia, dice lei. Chiaro, grazie Fabio da Reggio Emilia. 349-238-6666, siamo quasi... In chiusura, girate per Milano, siamo invasi, la pianti lei, il suo ospite, dire queste cose. Gianfranco Schiavone, mi sembra che però ci sia il termometro che ci danno gli ascoltatori sia di paura, di percezione di invasione, di sgomento, bomba orologeria. Da cosa è dovuta questa cosa? In realtà, se guardiamo i numeri, ripeto, non è vero che è un'invasione. Ma io credo che sia dovuto, ripeto, a un'evoluzione troppo veloce, a fenomeni che evidentemente non sappiamo metabolizzare bene, e sicuramente anche una grande disorganizzazione dei servizi. Certamente non è dovuta ai dati, i dati sono chiarissimi, basta guardare le statistiche ufficiali europee, nonché del Ministero dell'Interno, la maggior parte delle persone sono rifugiate, i paesi di provenienza principali sono la Siria, l'Eritrea, la Somalia, l'Afghanistan attraverso via terra, insomma situazioni che si commentano da sé. Sì. Siamo in chiusura, abbia pazienza, devo veramente chiudere, però voglio solo ricordare una cosa: i dati dell'anno scorso dicevano Germania 125.000 richieste d'asilo accolte, l'Italia 26.000, questo per dare una dimensione, insomma il nord Europa è quella un po' la destinazione dei tanti ingressi in Italia. Ci torneremo perché continueremo a cercare ovviamente il ministro Alfano, avremo tanti altri ospiti sul tema immigrazione, continueremo a parlare perché vedo che vi tocca ed è bene fare chiarezza. Grazie Gianfranco Schiavone per essere stato con noi, grazie a Mire Lucchetti, Nadia Zammitti in redazione, Filippo Aureggi invece in regia. L'appuntamento per domani, sempre ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.